giù, sotto terra in crew con il diavolo. Ho troppi cazzi per la testa, sai com'è? Rimbomba, ecco troppo forte che quei timpani ti sfonda. Non scendo a patti nel tuo tavolo, tu terra scendi, lo giù, sotto terra in crew con il diavolo. Ho troppi cazzi per la testa, sai com'è? Rimbomba, ecco troppo forte che quei timpani ti sfonda. Mi sveglio male anche stavolta, no, non me ne importa, niente da fare, anche oggi cervello in rivolta. Sotto sopra, pischellino, indossavo felpe nere col cappuccio in testa, teschi stampati sopra. Guardavo it alla TV, lo trovavo buffo. Ora in giro ci sono pagliacci che fanno più schifo. Non approvo i discorsi che mi ripetete. In gruppo col diavolo, vendo anime per placare la sua sete. Ho scelto lui al suo rivale, almeno mi dà qualcosa da fare. Sta a guardare, questa vita scorre veloce, non c'è pace, sono troppe le stronzate da schivare. Sempre in gara, se mi vuoi fermare, mi devi bombardare. Non scendo a patti nel tuo tavolo, tu terra scendi, lo giù, sotto terra in crew con il diavolo. Ho troppi cazzi per la testa, sai com'è? Rimbomba, ecco troppo forte che quei timpani ti sfonda. Non scendo a patti nel tuo tavolo, tu terra scendi, lo giù, sotto terra in crew con il diavolo. Ho troppi cazzi per la testa, sai com'è? Rimbomba, ecco troppo forte che quei timpani ti sfonda. Se segui la massa prima o poi ti ritrovi calpestato, schiacciato da tutto quello che hai seguito. Io non vi ho mai seguito, no, sempre testa salda. Ci pensavano le donne a farmi perdere la calma. Fisso alcol, sempre gonfi, chiedi Enrico se vuoi botte. Poi ti gonfiano di botte, tibie sopra legno rotte. Giro per la tua città da solo, come posso fare? L'ubriaco si ferma, mi dà uno strappo, meglio non può andare. Ehi che c'hai? Hai bevuto troppo, ti vedo un po' giù. Ah, se sono astemio, no no no, non mi freghi più. Più come più, soldi più, figa più, alcol più come più, droga più, puttane sotto il palco. Non scendo a patti nel tuo tavolo, tu terra scendi, lo giù, sotto terra in crew con il diavolo. Ho troppi cazzi per la testa, sai com'è? Rimbomba, ecco troppo forte che quei timpani ti sfonda. Non scendo a patti nel tuo tavolo, tu terra scendi, lo giù, sotto terra in crew con il diavolo. Ho troppi cazzi per la testa, sai com'è? Rimbomba, ecco troppo forte che quei timpani ti sfonda.